alla sabbia fa locura. Morena, svegliami un lato, di che vai fica perato. Caro per me c'è il futuro, alla sabbia fa locura. Morena, svegliami un lato, di che vai fica perato.